Quanti fanti nelle retrovie di Oslavia non l'avranno accompagnata con il mandolino per fugare la paura della morte in agguato? Ne falciò più di 80.000 tra il Lenzuolo Bianco e il Dosso del Bosniaco, tra Preuma e Grafenberg, tra il Calvario e l'Isonzo. Riposano nel sacrario di Oslavia, che è a forma di croce, in mezzo ai vigneti dorati dall'autunno. Fra essi, un volontario romagnolo, aggregato ai giuliani, che sotto il grigio verde indossava la camicia rossa di Bezzecca. La sua morte vuole lo squillo di una canzone di gesta. E il 19 luglio arrivò alla trincea, si levò la giubba verde e mostrò la sua bandiera. E disse ai volontari romagnoli e triestini: avanti alla baionetta e fate i garibaldini! E in testa a tutti i fanti uscì dalla trincea con la camicia rossa che era la sua bandiera. 4 portaferiti, passata la bufera, uscirono per cercare il suo corpo e la bandiera. Finalmente, con la luna che uscì dal sabotino, essi videro tra i sassi il vecchio garibaldino. Egli stava sull'attenti davanti al generale, che gli appuntava al braccio i galloni di caporale. E i morti dell'Isonzo, Fanti, Omved, Granciari, presentavano le armi al vecchio Lavezzari. Novembre. Se non sono dimenticati i nostri, non lo sono neppure i figli di altre patrie, sacrificati nell'adempimento del dovere. Una scritta sul San Michele dice: su queste cime, combattendo da Prodi, italiani e ungheresi si affratellarono nella morte. E sul colle di Medea, in mezzo alla pianura friulana, un monumento a peristilio custodisce in un'urna la terra dei cimiteri d'Italia in cui sono sepolti soldati d'ogni nazionalità. Ha un nome latino, Ara Pacis, a significare pace tra i viventi, sull'ara dei caduti di tutti i paesi e di tutte le guerre. E affratellati in una chiesa viva, per suffragio quotidiano della preghiera, i 25.000 del Tempio Ossario di Udine, inumati in loculi chiusi da lastre marmoree che ne fasciano l'interno e la cripta, coi nomi incisi in ordine alfabetico, grado, reparto, decorazione. Sulla facciata dell'edificio, 4 grandi statue in pietra: il Fante, l'Alpino, l'Aviatore, il Marinaio. E suffragi quotidiani di preghiera non mancano ai primi caduti del Carso, sepolti a tergo della Basilica di Aquileia, nel più bel cimitero di guerra d'Europa, a giudizio degli stessi ex nemici. Inciso nel marmo e murato nell'abside, il salmo che Gabriele D'Annunzio qui lesse 2 novembre del 15, mentre rombava il cannone. Aquileia, donna di tristezza, sovrana di dolore, tu serbi le primizie della forza nei tumuli di Zolle, all'ombra dei cipressi pensierosi. Custodisci nell'erba i morti primi, una verginità di sangue sacro e quasi un rifiorire di martirio che rinnovella in te la melodia. Ombrata dai cipressi secolari, anche la tomba dei 10.000 ignoti, dove ieri fu traslata la madre triestina che scelse l'ignoto destinato all'apoteosi di Roma, madre di un disperso medaglia d'oro, sorella dell'umile portatrice di Timau. C'era a Re di Puglia il suggestivo cimitero di Sant'Elia, irto di reticolati e di paletti di ferro, di croci, di armi, di ordigni e materiali bellici. Vivo solamente nel ricordo. Eppure voci a fior di labbra ripetono distici indimenticabili. Sulla tomba d'uno sconosciuto. Che ti importa il mio nome? Grida al vento, fante d'Italia, e dormirò contento. Sotto un bidone da cucina. Colmo di vino un dì, rosso di sangue poi. Dalla trincea squarciata tornò il bidone a noi. Sulla tomba di un altro sconosciuto. Piangete per mia madre che non ha più lacrime. Sotto una ghirba. O ghirba, a me il tuo nome sa certo d'ironia. Tu salvasti la tua, io non salvai la mia. Sulla tomba di una croce rossina. A noi, tra bende, posti di carità l'ancella, morte fra noi ti colse, resta con noi, sorella. Sotto una gavetta. Fida gavetta mia, pace anche a te quassù, ora se non sei colma, io non borbotto più. Sotto una marmita colpita da una granata. Un colpo, un grande schianto. E per quel dì, sono di fede, il fante si nutrì. Cimitero di Sant'Elia, condannato a rapida fine per la consunzione del metallo esposto alle intemperie, fu sostituito con un'opera monumentale, una scala santa affiancata da cipressi, laddove il ciglione del monte Seibusi interrompe la sua sterile asprezza per diventare altare. Alla base, un monolito di porfido scuro, la tomba di Emanuele Filiberto Duca d'Aosta e 5 monoliti di pietra chiara, altrettante tombe di generali medaglie d'oro. I comandanti alla testa della ricostituita terza armata di 40.000 noti e di 60.000 ignoti. Poi i 23 gradoni, coronati di 3 croci, simbolo del Calvario e della resurrezione delle anime. I nomi degli invitti, grado, reparto, decorazioni, fusi in grandi lastre di bronzo. Ere perennius. Esaltazione del sacrificio al limite occidentale del Carso, in vista di Trieste che per questi e per tutti gli altri morti tra lo Stelvio e il mare ripalpita di tricolori nel giorno che loro appartiene. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Rapsodia del 4 novembre. 15ª trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora. Adattamento musicale di Ezio Vittorio. Hanno partecipato alla trasmissione il complesso orchestrale di Udine e la fanfara dell'VIII Reggimento Bersaglieri.